Io non vi nascondo una certa emozione nel presentarvi il nostro ospite di stasera. Nel 2004, quando abbiamo iniziato nel 2005, però le preparazioni erano un anno prima, non vi nascondo che c'era una lista di autori che io sognavo di poter invitare e Hakan Nesser faceva già parte di questa lista. Sono emozionato e contento di poter dare a lui la parola perché non vi anticipo oltre, comunque... Grazie mille e la parola a Hakan Nesser, a Carmen Giorgetti Cima, che merita due parole. Lei è la traduttrice di tutti i libri di Nesser. Lei conosce lo svedese, ha tradotto anche tanti altri libri, però quelli di Nesser non se ne è fatto mancare uno. Si conoscono anche personalmente, per cui ci aspettiamo una bella serata. E infine, ma la conoscete già, il nostro punto di forza è Romana Manzoni Agliati. Buona serata a tutti. Allora, chi comincia? Comincio io. Come si funziona? Mi sentite? Benissimo. Allora, io sono strafelice di essere qui questa sera a presentare il mio amico Hakan Nesser e a fargli le domande sui suoi libri e sul suo modo di scrivere. Sono strafelice perché io adoro Hakan Nesser, non solo come scrittore, questo è facile adorarlo perché basta leggere i suoi libri e lo si ama per forza, ma lo adoro come persona perché lui, pur essendo una celebrità sul mercato del libro da un quarto di secolo ormai, è stato tradotto in più di 30 lingue, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, ma lui è rimasto quello che è sempre stato. Cioè un antidivo, lui non ha mai ceduto a nessuna forma di divismo, pur avendo incontrato tutto questo successo. E secondo me, poi, che frequento la Svezia da ormai più di 40 anni e apprezzo tanti aspetti di questo paese, tra cui molti aspetti legati al carattere, al modo di essere, lui rappresenta il meglio di che cosa vuol dire essere svedesi, perché è una persona estremamente corretta, seria, professionale, disponibile e cortese al massimo. Allo stesso modo lui condisce queste virtù con qualcosa di molto personale che è un umorismo un po' sornione, che sicuramente verrà fuori anche stasera parlando con lui. È un umorismo che affiora un po' anche in tutti i suoi scritti. Sicuramente chi di voi ha letto i suoi romanzi sa che per quanto drammatica possa essere la storia, nei suoi libri c'è sempre anche qualche cosa che ci fa sorridere, che forse funziona anche da counterpart con la drammaticità delle storie narrate. Io l'ho incontrato alla fine degli anni 90, quando appunto la sua prima serie di polizieschi cominciava a varcare i confini della Scandinavia e a incontrare il pubblico internazionale e a essere tradotto. E, erano tempi che definirei proprio non sospetti, cioè precedenti di un bel po' di anni, quello che è stato un po' lo spartiacque nella letteratura svedese e non solo, cioè quel fenomeno planetario che è stato il successo della trilogia Millennium di Stieg Larsson, che bene o male è andata a condizionare il modo di fare letteratura e non meno anche il modo di fare editoria, non solo in Scandinavia ma un po' ovunque. Ecco, Hakan è rimasto fedele al suo stile, ha continuato a scrivere i suoi libri che non sono mai di clamore ma sono veramente di spessore. Cosa voglio dire? È uno spessore che c'è nel contenuto e nella forma. E sono libri che secondo me piacciono soprattutto a chi non solo ama leggere, ma anche rileggere. Perché le sue non sono semplicemente storie poliziesche con una trama intrigante. Sono essenzialmente storie, prima ancora che o non solo storie poliziesche. Cosa voglio dire? Che si possono, anzi si devono, rileggere perché hanno molto di più che non una semplice storia con un delitto dove si indaga e poi alla fine si scopre l'assassino. Ovvero, anche quando sai già chi è stato a commettere il delitto, un libro di Nesser lo rileggi. Non funziona tanto bene. lo rileggi comunque perché sono storie molto più profonde che semplici casi polizieschi. E giusto poche settimane fa, quando ho avuto fra le mani l'ultima mia traduzione di un suo libro, ho notato con molta felicità che avevano messo una fascetta che finalmente non aveva nessun aggancio con nessuno, niente paragoni. C'è scritto semplicemente Håkan Nesser, un grande maestro del giallo nordico. Ed è questo che è lui, un grande maestro del giallo nordico. È una definizione che trovo molto azzeccata, così come ho trovato molto azzeccata e simpatico il titolo che gli organizzatori del festival qui hanno voluto dare a questo incontro di questa sera, che è quella Svezia un po' così. Perché? Perché questo titolo inquadra molto bene quello che è lo sfondo delle storie di Nesser, che non è uno sfondo glamour come può essere quello della capitale, come può essere quello delle località turistiche più in voga della Svezia, che so, la costa occidentale o l'isola di Gotland, che hanno questi paesaggi da cartolina, per non parlare dello snobbissimo arcipelago di Stoccolma o del grande nord con il fascino delle enormi distese di neve. No, lo sfondo su cui si muovono i suoi personaggi è sempre molto sfumato, anche quando è immaginario, come nella serie di Van Veeteren. Vi sarete accorti che non sono mai paesaggi molto molto definiti, e in un certo senso ricordano proprio i luoghi dove lui è nato e cresciuto, questa Svezia un po' provinciale, proprio un po' così, sospesa fra tradizione, modernità, industriale ma anche molto rurale, e che appunto ha un paesaggio non sfarzoso, un paesaggio dolce ma che non sottrae l'attenzione a quello che succede dentro i personaggi. Quindi questa Svezia un po' così direi che è proprio azzeccato, perché è proprio quello che è il paesaggio, lo sfondo su cui si muovono tutti i personaggi di Nesser. Ed è uno sfondo che appunto non distrae l'attenzione dai personaggi, non siamo distratti da ciò che c'è fuori. Come sicuramente saprete, Nesser, che è uno scrittore estremamente prolifico, non ha scritto solo polizieschi, ma è soprattutto famoso per queste due serie di polizieschi. Quella che ha per protagonista il commissario Van Veeteren, e che è composta di 10 libri che sono stati scritti tra il 1993 e il 2003, e poi la serie che ha per protagonista l'ispettore italo-svedese Gunnar Barbarotti, che sono stati scritti fra il 2006 e il 2012 e sono purtroppo solamente 5. Anche qui Nesser va controcorrente, anziché cavalcare l'onda del giallo nordico, che ormai è un must per qualsiasi casa editrice, lui ha cominciato a scrivere meno, e io lo adoro anche per questo. Adesso magari incominciamo a domandargli qualcosa su questi suoi libri. First question. First question. But before, thank you. First of all, I'm very sorry about my very, very weak Italian. Allora, prima domanda, innanzitutto mi scuso per il mio italiano che davvero non è all'altezza. But I have just decided, hearing the first part of Carmen's, what should I call it, your kind of speech to me, if I die, you can write my gravestone. Could you please look after that you write the words you just said about me, put it on my gravestone when I die, and then I'll be happy. Quindi dopo aver sentito la laudazio che Carmen mi ha appena fatto, dice: quando muoio voglio che il coccodrillo lo scriva tu, e che anzi incida quello che hai appena detto sulla mia tomba. But I'm afraid it will be a very huge and pompous gravestone. E diventerà una tomba gigantesca con tutto quello che hai detto. But now I'm prepared for the first question, please. Bene. La prima domanda. Allora, Håkan, perché hai scelto proprio due poliziotti per questo tuo dialogo ideale con i lettori? Well, if you write crime fiction, you need a policeman. Se scrivi dei gialli, ti serve un poliziotto. I realized this after, because I'm not planning very much. If you look at it now at a paper, you think that I'm a guy that plans a lot, that I know that I'm going to write 10 books about him and 5 books about him. This is not the case. I knew nothing when I started with the first book of Van Meteren. E devo dire che se uno adesso ha presente tutti i libri che ho scritto, i 10 su Van Veeteren e i 5 su Barbarotti, sembra che io abbia pianificato tutto. In realtà non è così. Quando ho iniziato a scrivere non sapevo assolutamente dove sarei andato a finire. Starting with the first book about Van Veeteren, I wrote 2 chapters. I liked them very much. I think I would have liked them if I was just a reader. And then in chapter 3 I realized now I need an inspector. Quando ho scritto il primo libro di Van Veeteren, dopo i primi 2 capitoli che mi sono piaciuti subito molto e immaginavo che anche a un lettore potessero piacere, arrivato al 3° capitolo ho detto adesso mi serve un ispettore di polizia. And then first question was, what is he going to be like? E la prima domanda è stata, ma come sarà questo ispettore? And I thought about other inspectors in other books. And they are usually depressed. They're old, they work too much, they drink too much, they listen to opera music. E ho pensato appunto agli ispettori dei miei concorrenti, insomma degli altri libri gialli, che di solito sono anziani, sono depressi, bevono troppo, ascoltano musica opera. And then I decided to I like to make him one of these guys. but he is not a very sympathetic fellow. He's a bit rough. But he has a golden heart, and he has also an imperative that he needs to do the dark things, or hunting down the dark things that he doesn't really want to do. You could call it the imperative of Immanuel Kant, or you can call it the conscience of Martin Luther. E allora ho deciso che l'avrei che lui sarebbe diventato come questi altri ispettori degli altri libri. Non è un tipo particolarmente simpatico, Van Veeteren, anzi è un po' grezzo se vogliamo dire, però ha un cuore d'oro e soprattutto ha questo bisogno, questo imperativo che lo guida, cioè di cercare di seguire le cose più difficili della vita. Se possiamo chiamarlo l'imperativo di Immanuel Kant o anche la coscienza di Martin Lutero. And then I wrote 10 books about him, 3,600 pages roughly. E poi ho scritto 10 libri appunto con lui come protagonista, circa 3,600 pagine. And then I was asked a question by journalists, will you now start on a new series? And I said, no, never, never a new series. E allora i giornalisti hanno cominciato a chiedermi, perché non inizi a scrivere un'altra serie? E io ho detto, no, non lo farò mai. And then I wrote a couple of books that were not crime stories, but then I started on a book which is the first in the series about Gunnar Barbarotti. It's called Man Without Dog. E così ho cominciato a scrivere dei libri che non erano dei gialli, ma poi mi è venuto di scrivere un libro che poi sarebbe diventato il primo libro con Gunnar Barbarotti come protagonista, cioè L'uomo senza un cane. It was not supposed to be a crime story, it was not supposed to be a part of a series. But then I wrote 200 pages and I came to a point which is called writer's block. E questo libro non doveva diventare né un giallo né il primo di una lunga serie. E dopo 200 pagine che scrivevo ho vissuto quello che si chiama l'incubo della pagina bianca, il blocco dello scrittore. Usually you just wait. You wait for a couple of days or a couple of weeks and then it comes back to you. Not in this case. After a month, I had no idea how to continue this book. It was 200 pages, and perhaps I would have to burn them. Di solito aspetti un paio di giorni, un paio di settimane, e questo blocco poi si scioglie. Ma qui, dopo un mese che io ero bloccato, veramente non sapevo più come andare avanti, non sapevo come continuare, e mi sono detto, mi sa che queste 200 pagine è meglio che le bruci. This is a very long answer to a very short question, but I apologize, my future... answers will be shorter, but I'll continue now. Dice risposta molto lunga a una domanda molto corta, sarò più breve con le prossime. Ma in compenso ha già risposto almeno a un altro paio di domande che volevo fargli, quindi. Good. Cross them out. Bene, cancellale. Infatti, le crossiamo. No, what happened was that after 200 pages and 3 months of waiting, there was a knock in my head, knock on like on a door inside my head. Dopo 200 pagine e 3 mesi di attesa, ho sentito come qualcosa che o qualcuno che bussava dentro la mia testa. I opened the door and outside a man was standing and he said, "Hello Mr. Nesser, my name is Gunnar Barbarotti. I can help you." E quando ho aperto la porta c'era questo signore, questo Gunnar Barbarotti, che mi ha detto: "Buongiorno signor Nesser, io posso aiutarla se vuole." So I invited him into my brain and we had a long interesting discussion and I realized I need this guy for the book. I need a police inspector and Gunnar Barbarotti is very nice. He's different from Van Beter and he has a strange connection with God. He's playing a game with God and I said, "Okay, I will use you for this story." E allora l'ho fatto entrare nel mio cervello, abbiamo parlato a lungo e mi sono reso conto che avrei avuto bisogno di lui, anche perché lui è un tipo molto carino, molto diverso da Van Veteren, ha un rapporto speciale con Dio e mi sono detta: "Va bene, allora ti uso." Gunnar Barbarotti said, no, I'm more interesting than you think, I need 4 books, not one. E lui mi ha detto: "Guarda che io sono più interessante di quello che pensi, ho bisogno almeno di 4 libri su di me, non uno." Listen to the music of the word, the Barbarotti Quartet. It sounds very nice. Se si dice il quartetto Barbarotti, suona molto bene, suona subito bene, sentite che musica. It is a fat quartet of 5 books. In realtà sono diventati 5. Ma adesso ti devo chiedere assolutamente una cosa, perché hai scelto proprio di farlo mezzo italiano? Perché è imperfetto, perché è un po' goffo. I'm not sure about the correct answer, but I mean I like the name Gunnar, which is very very Swedish, and Barbarotti, which is Italian, of course. But it's also Barbar. I don't know if you, when I wrote it, I wasn't sure. Could you be named Barbarotti in Italy? Is it possible? Sì, sì. Because Pavarotti, everybody knows. Barbarian is a barber, so. But I mean, I like names, and I like the mixture of a Swedish and an Italian name, Gunnar Barbarotti. Non so bene come rispondere a questa domanda, però mi piaceva il nome di battesimo Gunnar, che è molto svedese, e mi piaceva il suono Barbarotti, anzi all'inizio non sapevo neanche se in Italia esistesse davvero come cognome Barbarotti, però suona bene. Pensavo anche a Barbaro, Barbarian in inglese, e a me piacciono molto i nomi e mi piace soprattutto questo mix di svedese e italiano. There is a police inspector in one of Henning Mankell's books, he's the other way around, he's Giuseppe Larsson. Ah sì? Which is very strange. In Mankell, in uno dei libri di Mankell, c'è il contrario di Gunnar Barbarotti, cioè Giuseppe Larsson. Allora, hai già risposto alla mia domanda sul che voleva appunto sottolineare il fatto che i tuoi 2 poliziotti non sono speciali, ma sono persone abbastanza normali. Magari, ecco, io direi con uno speciale senso morale. Ma comunque hai già risposto sul fatto che non volevi fare il classico alcolista oppure il super poliziotto. Ecco. Parliamo invece dei tuoi criminali allora a questo punto, perché anche i tuoi criminali sono molto atipici. Molti di loro hanno commesso certamente il delitto, ma sono criminali fuori, non criminali dentro. Penso per esempio a Valdemar Ross, penso anche ai 2 adolescenti del ragazzo che amava Kim Novak, penso a quelle 2 bellissime figure femminili che sono la protagonista di Una donna segnata e la squartatrice Ellen Bjarnebu. Sono tutti criminali fuori, nel senso che il delitto l'hanno commesso, ma non sono criminali dentro. E infatti alla fin fine il lettore si trova a solidarizzare con loro. Non li vorrebbe condannare, come anche in fondo tu non li condanni. Allora, volevo capire, mi interessava sapere, insomma, che cos'è veramente, che cos'è il male per te? Perché queste persone non rappresentano il male, anche se sono criminali, da un punto di vista tecnico. If a bad guy makes a bad deed, it's not very surprising. But when a good guy kills somebody, that is surprising. Se una persona cattiva compie un'azione cattiva, nessuno è sorpreso, ma se una persona buona compie un atto criminale, come in questo caso, allora sì che ci sorprendiamo. And I think that one of my aims is that you, perhaps you mustn't sympathize with the murder, but you must understand that there are motives, perhaps that I would buy these motives. If I was squeezed into a corner, I could kill somebody. If I, under certain circumstances, perhaps every one of us can be a killer. Quindi il mio obiettivo non era tanto di far simpatizzare con dei criminali, però cercare di capire perché fanno certe cose, cioè quali sono i moventi di queste persone, nel senso che io stesso, se fossi schiacciato in un angolo, potrei immaginare magari di uccidere qualcuno, quindi vedere perché queste persone hanno commesso questi omicidi. And I know that in many of my books, as they were supposed to, many of the readers really sympathize with the murderers, particularly perhaps in one book called Una donna segnata. Mm. There is a woman, she kills, I think it's four men. And I remember when because this was made a film out of in Sweden, when the last film was shown, there were three episodes, I think, I went to a post office in Sweden to do my ordinary paying things. And then the woman sitting on the other side of the counter recognized me. And she said, I'm so happy she got number four as well. Dunque, appunto, in molti dei miei libri i lettori simpatizzano quindi con questi assassini, soprattutto per esempio in questo libro Una donna segnata, da cui è stato tratto un film in Svezia, e la protagonista, questa donna, uccide quattro uomini. E a me è successo, dopo che alla televisione era stato proiettato il terzo episodio, di andare in posta per fare i miei pagamenti, e la postina, quindi dall'altra parte dello sportello, mi ha detto: sono proprio contenta che abbia ammazzato anche il quarto. Intervengo qui perché avevo detto che lui non è mai stato attirato dal divismo, forse però una piccola cosa da divo la fa, cioè gli piace partecipare marginalmente in qualche piccola scenetta ai film tratti dai suoi libri, e questo mi è tornato in mente proprio parlando di Una donna segnata. Perché lui mi ha raccontato un episodio molto divertente. Lui aveva impersonato il sacerdote che celebra il funerale della madre di questa donna, un funerale tristissimo perché c'è solamente lei a seguire la bara di sua madre, e tutto si svolge in una giornata cupa, piove, eccetera. E mi raccontava che hanno dovuto ripetere la scena un po' di volte, lui si è inzuppato fino alle ossa e si è pentito di aver scritto la scena a questo modo. Yeah, that was actually the end of my career as an actor. I was so bad. It was I was doing the priest conducting the funeral, and I mean, a monkey could do this in, let's say, 2 hours, and it took 9 hours with me as the priest, and I was sick 3 weeks after that because of all the rain and the wind, etc. So I had some ambitions to be an actor in my films, but it ended with this appearance. Appunto, quella è stata la fine della mia carriera come attore, perché ero pessimo a recitare. Ho dovuto appunto fare il prete che celebrava questo funerale, e lui dice: una scimmia in 2 ore l'avrebbe fatta, l'avrebbe girata questa scena. Io ci ho messo 9 ore, mi sono ammalato per 3 settimane, poi sono stato malato per via della pioggia, del vento, e quindi tutte le mie ambizioni di recitare sono finite con questa storia. But I think, since my answers are so long, I think we should listen to Carmen a bit more. I think she's No. Well, no. You should read the first page of this new book in Italian. It's not new to me, because it was out in Sweden in 1994. So if you ask me questions about it, I would probably have no answers whatsoever. Dunque, dici, io parlo troppo, adesso facciamo parlare un po' Carmen, che leggerà le prime pagine di questo libro che è appena uscito in italiano e che si chiama appunto Il commissario cade in trappola. Dice, in realtà è un libro vecchio per me, perché in Svezia è stato pubblicato nel 94, quindi non fatemi domande, perché capita che non mi ricordo esattamente cosa succede nel libro. But if you listen carefully, you could skip the first page when you read it. Ma se ascoltate molto attentamente, dopo, quando leggerete il libro, potete cominciare dalla pagina 3. Risparmiate tempo. Allora, se Ernst Simmel avesse saputo che sarebbe diventato la seconda vittima del tagliateste, forse si sarebbe concesso un altro paio di drink al Blue Shepherd. Invece si accontentò di un cognac insieme al caffè e di un whisky allungato con acqua al bar, mentre, senza alcun successo e neppure troppo impegno, cercava di catturare lo sguardo della bionda ossigenata seduta all'angolo del bancone. Dovevano averla assunta da poco alla fabbrica di conserve, non l'aveva mai vista prima, ne era sicuro. Alla sua destra era seduto Hermann Schalke del Journal, che tentava di coinvolgerlo in un weekend economico a Kaliningrado o qualcosa del genere. Quando più tardi la polizia ricostruì la sua serata, la conclusione fu che molto semplicemente Schalke era stato l'ultimo a parlare con Simmel in questa vita, sempre che il tagliateste non gli avesse detto qualcosa prima di ammazzarlo, il che non era molto credibile, considerato che il fendente, proprio come nel primo omicidio, era arrivato da dietro e leggermente dal basso, e su questo non c'era molto su cui discutere. «Uff», aveva esclamato Simmel, buttando giù le ultime gocce di liquore, «è ora di tornare da mia moglie». Almeno così a Schalke pareva di ricordare. Comunque forse aveva cercato di impedirglielo, aveva insistito dicendo che erano solo le 11 e che la notte era giovane, ma Simmel era stato irremovibile, proprio così, irremovibile. Era scivolato giù dallo sgabello, semplicemente, si era sistemato gli occhiali e passato la mano sul patetico riporto sopra la calvizie, come faceva sempre. Aveva borbottato qualcosa e se n'era andato. L'ultima cosa che Schalke aveva visto di lui era stata la schiena bianca, mentre, fermo sulla soglia, sembrava indeciso su che strada prendere. Il che, con il senno di poi, era un po' strano. Simmel doveva pur sapere dove abitava, no? O forse si era solo fermato un istante a godere della dolce aria notturna. Era stata una giornata calda, l'estate non era ancora finita e le serate erano sature delle tante ore di sole accumulate negli ultimi mesi. Quasi si potrebbe berle a lunghe sorsate queste notti, aveva detto qualcuno. Una sera degna di un viaggio nell'aldilà, se ci si poteva azzardare a usare un'espressione simile. Al Journal, Schalke si occupava di sport e cronaca locale, ma in qualità di ultimo testimone si era arrogato l'incarico di scrivere il necrologio del direttore immobiliare strappato così improvvisamente ai suoi cari. Una colonna della società, senza dubbio, da poco tornato nella sua città natale, dopo aver trascorso alcuni anni all'estero, sulla Costa del Sol spagnola, insieme ad altri contribuenti che la pensavano come lui a proposito delle tasse. 58 anni, ma ancora nel fiore della vita. Lasciava una moglie e due figli ormai grandi. Grazie. Prego. Ecco, ora vorrei domandarti, Håkan, può aver avuto qualche, è una mia curiosità, può aver avuto qualche significato il fatto che nella periferia della città dove sei nato e cresciuto c'è uno, anzi il più grande, dei 6 carceri di massima sicurezza di Svezia, cioè dove sono rinchiusi i peggiori criminali. Tra l'altro questo penitenziario è proprio stato ampliato e completato nella sua attuale veste durante la tua adolescenza. Ha avuto qualche importanza per il tuo interesse per il crimine, questo fatto di avere carcere di massima sicurezza alla periferia della città dove stavi? No, I don't think there is any obvious connection. In the third book in the Van Veeteren series, L'uomo che visse un giorno. See, I use this prison. I mean, somebody's getting out of the prison, and also it's a part of a documentary about a very famous murderer from my area in Sweden when I was a kid. But I don't think that the when you say in Sweden that I used to be a teacher. When I said I am from Kumla, which is the name of this town, And the only thing Kumla is famous for is this huge prison. They think that I come from the inside of the prison. But there is a small town outside the walls as well. Dice, no, non penso che io mi sia messo a scrivere libri gialli per questo motivo. A dir la verità, nel terzo libro, appunto, L'uomo che visse un giorno, parlo di questa prigione perché c'è uno dei protagonisti che appunto è uscito da questa prigione. Parlo anche di un omicidio che era successo quando ero bambino. Dice, io ero insegnante. Quando dicevo che ero di Kumla, tutti pensavano che fossi stato appunto in carcere, okay, in questa prigione. Sì, perché lui diceva che vengo da Kumla. Vengo da Kumla, è l'unico, l'unico motivo per cui è famosa questa città. E però non ci crederete, ma oltre alla prigione c'è anche una cittadina lì accanto, io sono cresciuto lì. Ma ti sei mai ispirato a storie vere per i tuoi romanzi? I think this is the only case, the third book in the Fan Veteran series, because this guy, when I was 9 years old, he was the most famous murderer in Sweden in the 20th century. And he was committed twice for killing two women, and he spent 20 years in prison, and probably he was innocent. But everybody talked about this guy when I was a kid. And so I was a bit inspired by this single case when I wrote the third one in the Fan Veteran series. Otherwise, I've been lying from page one to the last page in every single book. But it's not important to tell the truth, but you should write stories that could happen. They didn't happen, but they could have happened. That's important. Ecco, l'unico caso è appunto quello di cui parlavo prima, cioè di questo terzo libro nella serie Van Veteren, dove parlo appunto di questo omicida che quando io avevo 9 anni era sulla bocca di tutti, perché era l'omicida più famoso della Svezia, più famoso del XX secolo. Avevo ucciso 2 donne. Era stato condannato 2 volte, magari poi era anche innocente. Però diciamo che è l'unica volta che mi sono ispirato a un fatto di cronaca, altrimenti ho raccontato bugie dalla prima all'ultima pagina in tutti i miei altri libri. Però dice, l'importante non è dire la verità, non è quello che è importante, l'importante è raccontare storie che potrebbero essere plausibili, che potrebbero succedere. Sì. Allora, prossima domanda. Hai appena citato il fatto che sei stato insegnante. In molti tuoi libri compaiono degli insegnanti, no? Anche non come protagonisti magari, ma ci sono gli insegnanti. Che cosa ha significato per il tuo diventare scrittore, la tua lunga esperienza di insegnante liceale? I'm not sure. I think it's to be a teacher and to be a crime writer, hopefully, are very different occupations. But there is a rumor in Sweden that it's very normal to start out as a school teacher, because the situation in Swedish schools is so criminal that it's normal that you work at 10 years as a teacher, then you can start writing a crime, because that's research, and then you can become a crime writer. This rumor is not true, though. Dunque, spero veramente che essere un insegnante e essere uno scrittore di gialli siano 2 cose molto diverse, però gira la voce in Svezia che è una buona idea fare prima l'insegnante di scuola, perché la situazione nella scuola svedese è talmente tragica che è come far ricerca per i tuoi libri gialli dopo, perché è pieno di criminali, insomma. Però non è vero, non è così la storia. Una caratteristica delle tue 2 serie di polizieschi è che sono ambientati in luoghi immaginari. Beh, la serie di Van Veteren è completamente ambientata in un luogo immaginario, un paese immaginario, una città immaginaria. La polizia di Mardam non esiste perché non esiste Mardam. La serie di Barbarotti è ambientata in Svezia, vera, però in una città che non esiste, Skymlinge. Hai già spiegato tante volte ai tuoi lettori che hai fatto questa scelta perché ti dava libero spazio all'inventiva. Al tempo stesso tu parli spesso nei tuoi libri del paesaggio interiore. Ci puoi spiegare questo concetto e che cosa ti interessa di questo paesaggio interiore di più? Le luci, le ombre? Well, concerning landscapes, I think that I made the decision by gut feeling, intuition, where should I put this story? This was probably in chapter 2 in the first in the Van Veeteren books. So is this Stockholm? Is this Malmö? Is it Paris or London? Or where is it? And I decided, no, I don't want this to be in a real place. I want it to be fictitious, not knowing why, just by intuition. Quindi, per quanto riguarda dove io ho deciso di ambientare i miei romanzi, ho deciso, credo, subito, insomma, quando avevo scritto due capitoli del primo libro della serie di Van Veeteren, così di pancia, che non avrei voluto ambientarli né a Stoccolma, né a Malmö, né a Parigi, né a Londra, che non doveva essere un posto reale, ma l'ho deciso appunto per intuizione più. And then I couldn't change it, could I? E poi non ho più potuto cambiare. No, but also I think that there is a point with the landscape where you don't know where you are. You might compare it to theater, where you do classics, where you for instance play the old Greeks like the old Sophocles or Euripides or classic Greek dramas or Shakespeare, Macbeth or whatever. Usually, when you play these classic dramas, you can use a white or a black background. And not a lot of stuff on the stage, because then you see the drama and you see the characters more clearly when you don't have a lot of stuff. You don't know where you are, really. And you can use the same system when you write a book, I think. If you have this bleak, fictitious landscape, then the characters and the drama becomes more clear to the reader. I think that was behind my intuition when I started in this fashion. Credo che la mia intuizione appunto si basi un po' su una similitudine con il teatro. Quando metti in scena i classici greci, per esempio Sofocle, Euripide o anche Shakespeare, di solito usi come sfondo o tutto bianco o tutto nero e metti anche poche cose sulla scena proprio perché il pubblico si possa concentrare di più su quello che succede e sui personaggi. Quindi non è così importante cosa c'è lì, tu quasi non sai dove sei, ma l'importante è appunto la storia, i personaggi. E io, se volete, con questa mia intuizione, ho voluto fare la stessa cosa nei miei libri. And concerning the inner landscape, I mean, it's the what you realize when you are a writer and you've been out in so many different countries. I mean, you realize that we share the same psychology. I was a bit of when I lived in New York for 2 years, and when I went to these small places in the United States talking to the readers there, I was wondering and a bit nervous in the beginning, are these the same kind of readers that I meet in Europe? And of course they are. We are the same, we share the same psychology, we can understand each other. That is our inner landscape that we share as writers and readers. Otherwise we wouldn't be able to read books. And I can read a good book written by a Brazilian writer in the 17th century, and I can understand him or her because we share the same inner landscape. E per quanto riguarda il paesaggio interiore, io come scrittore ho viaggiato molto, anche abitato in diversi paesi, ho abitato per esempio 2 anni a New York e poi sono andato appunto a presentare i miei libri in giro per l'America anche in piccole cittadine, ed ero un po' nervoso all'inizio perché mi dicevo chissà se i lettori saranno gli stessi che ho in Europa. E devo dire che sì, perché tutti condividiamo la stessa psicologia, per quello che ci capiamo, altrimenti nessuno leggerebbe più libri. Dice, io posso leggere un libro scritto da un autore brasiliano del XVII secolo, se è un bel libro, io lo capisco, proprio perché c'è questa condivisione del paesaggio interiore. Allora, sì. Bravissima anche tu, sì, davvero, sì. Bravissima. Perfetta. Allora, la serie di Van Veeteren diciamo che si è conclusa bene, nel senso che è proprio compiuta. Lui già a metà della serie ha scelto di abbandonare la polizia, però è sempre rimasto ad aiutare i suoi ex colleghi, però poi si è adagiato nella sua vita di libraio antiquario con la sua simpatica compagna Ulrike, quindi lì è tutto tranquillo. La serie di Barbarotti, però, siamo onesti, non è finita, perché nell'ultimo libro tu racconti che lui vorrebbe venire in Italia sulle orme del suo padre italiano che non ha mai conosciuto e magari portarsi appresso la collega Eva Backman, cioè c'è una un'apertura di cambiamento nella vita di Barbarotti. Ma è possibile che non scriverai un sesto libro per spiegarci com'è andata? While he's coming to Italy to look for his father, he might be one of you. I'm not sure, but and readers in Germany in particular, and particularly in my German voice who's doing the audiobooks, he's always, we're on stage like this in Germany once a year, and he's always shouting at me, when is the sixth Barbarotti book out? They want we want to know what's going to happen with Barbarotti in Italy, trying to find his father. But for me, they are both still alive, but I won't write about them anymore. I talk to Van Veeteren like once a month, and he tells me from his antiquariat in Maardam that no more books about me, please. I'm quite happy in my antiquariat. You're not allowed to write another book. And I say, okay, that is the situation. Barbarotti, I'm not sure, but he's somewhere. I think he's still around in Italy looking for his father. He might be dead. I'm not sure. But if anybody, if you have a writer in the audience, you can probably write a number six of Barbarotti. I wouldn't really mind, or perhaps I wouldn't mind. I'm not sure. Dunque, sappiamo appunto che Barbarotti è andato in Italia e magari qui stasera, chi lo sa. Quando vado in Germania una volta all'anno appunto a presentare i miei libri e anche i miei audiolibri, mi chiedono sempre, anzi proprio mi spingono dicendo, ma insomma quando esce questo sesto libro su su Barbarotti, e cosa succede, trova il padre o non lo trova? Ecco, io devo dire che tutti e due i miei protagonisti sono vivi, stanno bene, però ho deciso che non scriverò più di loro. Io parlo una volta al mese con Van Veeteren, lui mi dice, ti prego non scrivere più un libro su di me, sto così bene qua nel mio negozio di libri antichi, non ho bisogno di essere protagonista di un altro libro. E Barbarotti penso sia ancora in Italia, magari è morto. Se c'è qualcuno, uno scrittore tra voi che vuole scrivere il sesto libro, per me non c'è problema, o forse sì. Si sa? Allora, non scrivi più di Van Veeteren, ok, non scrivi più di Barbarotti. Di che cosa stai scrivendo? I'm not writing series anymore. I'm sure about this. And realizing I'm 66 years old, I've written so far close to 30 books. I will probably not write much more. I mean, a couple of books. I mean, but there are still 14 books to be able to translate them into Italian. So no worries if you like them. But single books, good books. This year in Sweden, I have two books out in August. One is a sort of a crime story. It's a standalone, not part of a series. It's out in August. It's 550 pages. This is one of the books that are out in Sweden. It's called The Eyes of Eugene Coleman. It sounds like a song. The Eyes of Lucy Jordan. But it's this is Eugene Coleman. So I stole it without noticing until now. Dunque, ho deciso che non scriverò più serie. Ho 66 anni, ho scritto 30 libri. Magari ne scriverò ancora un paio nella mia carriera, ma basta così. E diciamo che ci sono ancora 14 libri che non sono stati tradotti ancora in italiano, quindi se vi piacciono tanto non c'è problema, facciamo tradurre quelli. Quello che so è che comunque scriverò dei libri singoli, non parte di una serie. In Svezia, per esempio, quest'estate escono due miei libri in agosto. Uno è una specie di giallo, però appunto è un libro singolo, non parte di una serie, sono 550 pagine di libro, che si chiama Gli occhi di Eugene Coleman, e dice, sembra quasi il titolo di una canzone. The second book is The Memoirs of My Dead Dog, Norton. Il secondo libro si chiama Le memorie del mio cane morto. A very lovable dog. He was not only a dog, he was also a philosopher, so it's called It's called Norton Kierkegaard, actually, the dog, and he thinks he's a philosopher. It's a thin one. It's only like 80 pages illustrated. Very nice. He's in dog's heaven now, but I helped him a bit because he has problems with printing because his paws are too fat for writing. But it's a very nice memoirs, I think, and I hope that Carmen will translate it soon because I think it's worth reading, actually, and he's very proud of it. Appunto, era un cane veramente adorabile, e che non era soltanto un cane, era anche un filosofo, si chiamava Kierkegaard lui come cane. Sono solo 80 pagine, un libricino con delle belle illustrazioni. Il mio cane adesso è nel paradiso dei cani, e scrivo io per lui perché lui con le sue zampettine sono un po' troppo ciccione, non riesce a scrivere sui tasti del computer. Comunque è molto contento del libro, speriamo che Carmen lo traduca. Io spero vivamente di tradurli tutte e due. Ma in particolare aspetto questo libro scritto da Norton, perché un'altra cosa che ci accomuna è l'amore per i cani, e ci siamo sempre scambiati le notizie dei rispettivi cani. Okan ha conosciuto il mio adoratissimo Brutus, io non ho mai incontrato Norton, che era un bellissimo rhodesia Ridgeback, però ho visto le foto. E domani Okan verrà a casa mia a incontrare i miei nuovi cani, perché appunto questo è un argomento che ci interessa molto, per cui questo nuovo libro scritto da Norton lo attendo veramente con ansia, e spero che ci sia un editore italiano desideroso di pubblicarlo subito. Io in ogni caso lo leggerò e magari me lo tradurrò solo per il gusto di farlo. Grazie, thank you. Grazie a te. But I mean, I've published so many books, and I usually publish one book every year. And between these Norton books and the end of Barbarotti, I think I wrote three books from, it's called a trilogy. So you might get into heavy work, because this trilogy is about three major cities in the world. Unfortunately, not an Italian one. That was a mistake, of course. But I've lived for a couple of years in New York. We lived for a couple of years in London, and then I spent some time in Berlin. So there is a trilogy about these three cities, a new New York story, a London story, and a Berlin story, that has been published, well, over the last 4 or 5 years. Quindi sì, tra questo libro su Norton, sul cane, e l'ultimo di Barbarotti, io ho comunque scritto tre libri, una trilogia, quindi dice c'è un sacco di lavoro per Carmen. E è una trilogia ambientata in tre città diverse del mondo, perché purtroppo appunto non c'è una città italiana, questo è stato un grande errore, ma come dicevo io ho vissuto a New York, e poi ho vissuto a Londra, e siamo stati anche un periodo a Berlino. Quindi c'è appunto una storia ambientata a New York, una a Londra e una a Berlino. And I'm not sure it's crime fiction, it's fiction. Sometimes the book dealers or in the bookshops, they ask me, is this a crime story or is it a mainstream novel? I mean, where should I put the book, on that shelf or on that shelf? And I usually give them the advice to buy two books and put one on that shelf and one on that shelf. Bravo. Devo dire che è fiction, non è proprio un giallo. Quando mi chiedono, per esempio, nelle librerie che tipo di romanzi sono questi tre romanzi, dove li devo mettere, su che, tra i libri gialli oppure tra i romanzi normali, io dico comprane due copie, uno lo metti tra i gialli e l'altro lo metti con i romanzi normali. Anche perché, come ho detto io all'inizio, i suoi libri non sono soltanto gialli o polizieschi, sono storie. Sono comunque romanzi che hanno un valore al di là del genere, per cui ha ragione dire di collocarli, va bene, dove vogliono, ma anche semplicemente tra i romanzi. Yes, I hope so. It's the because people read a lot of, they usually call them crime novels because they sell better if it's a crime novel, because people read crime novels more than they read ordinary novels. But to me it's I mix. I usually somebody's dead in the book. But I mean, if you compare it to Shakespeare, which is another nice writer, he killed a lot of people as well. I mean, if you look at the end of Hamlet, I think there are 13 people dead. And this is not called a crime drama, it's called a drama. So it's always a mix. And Dostoevsky as well, he kills a lot number of people. So it's I mix in when it comes to genres, I think. Quindi sì, io sono contenta di questo fatto che possano andare un po' sui due ripiani, perché è vero che se tu definisci un libro un giallo, un poliziesco, vende di più, perché la gente tende a leggere di più libri gialli che libri normali, se così vogliamo. Però io mischio molto. Certo, qualcuno muore nei miei libri, però se prendiamo un altro bravo autore come Shakespeare, bravo come me, dice lui, anche lui ha ammazzato un bel po' di gente nei suoi libri. Per esempio, alla fine di Amleto credo che fossero 13 morti, e non è sicuramente un autore di gialli Shakespeare. Dostoevsky la stessa cosa, quindi io mischio i generi. E a proposito delle traduzioni che mi possono attendere ancora per tutto il resto della vita, di tradurre i libri che non ho ancora tradotto tuoi, voglio proprio dire che allo stesso modo che tu, che hai adesso 66 anni, non hai più voglia di scrivere tanto, io, che ne ho 62, non ho più voglia di tradurre tanto. Per cui non è, no, mi limiterei a tradurre i tuoi libri, che i tuoi li traduco sempre volentieri. Per cui sarei più che felice di concludere la mia carriera di traduttrice, pur avendo io tradotto il meglio della letteratura svedese contemporanea, adesso sto proprio riducendo e mi concentro solo sugli autori che vale la pena di tradurre, perché è la mia vita che impiego in questo lavoro. E Håkan comunque è uno degli autori che traduco sempre volentierissimo. Infatti adesso, quando tornerò a casa, domani incomincerò una nuova traduzione, è una traduzione di un suo libro, e sono solo felice. Thank you. Then I have a suggestion that I stop writing now, and when you translate the 14 books that you have missed, then you give me a call and I write another one. Okay. Granted. Allora smetto di scrivere, quando avrai finito di tradurre gli altri 14 mi chiami e io comincio a scriverne uno. Okay. Okay. Yeah, good. Direi che io ho finito con le domande che avevo preparato, anche perché lui ha risposto all'interno di una domanda, ha dato risposta ad altre tre o quattro domande, per cui però possiamo andare avanti a chiacchierare su qualsiasi argomento che riguardi i tuoi libri o anche altro. No, I think that we should finish, and we will not open the audience for questions, because your questions will be so complicated that I will not be able to answer them. I've been around so much, and I always answer the questions, even if I don't have an answer. One exception, in Germany once, a couple of years ago. Ecco, dice, per ora secondo me è meglio fermarci qui e non apriamo neanche la discussione al pubblico. Non fatemi domande voi, perché sarebbero troppo complicate e io non sarei capace di rispondere. Io ho partecipato spesso a serate come quella di questa sera e di solito rispondo sempre anche quando non so la risposta, tranne in Germania, dove mi è successa una cosa qualche anno fa. We had a very long sitting, I think it was 2 hours, and a lot of questions from the audience. Quindi per 2 ore siamo andati avanti in una serata come questa e ci sono state molte domande dal pubblico. And then the moderator said, okay, one last question for Mr. Nesser. And at the back of the audience there was a lady raising her hand. E a quel punto il moderatore ha detto, va bene, adesso un'ultimissima domanda per Nesser, e in fondo alla sala c'era una signora con la mano alzata. And she said in English with a slight German touch, Mr. Nesser, I have one question for you concerning the Van Veeteren series. Why does Van Veeteren never drink milk? E questa signora, quindi in inglese con un forte accento tedesco, gli dice, ho una domanda su Van Veeteren, perché Van Veeteren non beve mai latte?